334. Polpette di trippa. Questo piatto, tolto da un trattato di cucina del 1694, vi parrà strano e il solo nome di trippa vi renderà titubanti a provarlo, ma pure, sebbene di carattere triviale, coi condimenti che lo aiutano, riesce gradito e non grave allo stomaco. Trippa lessata, grammi 350, prosciutto più magro che grasso, grammi 100, parmigiano grattato, grammi 30, midollo di bue, grammi 20, uova numero 2, un buon pizzico di prezzemolo, odore di spezie o di noce moscata. Pappa non liquida, fatta di pane bagnato col brodo o col latte, 2 cucchiaiate. Tritate con la lunetta la trippa quanto più potete finissima. Fate lo stesso del prosciutto, del midollo e del prezzemolo. Aggiungete le uova, il resto, un poco di sale e mescolate. Con questo composto formate 12 o 13 polpette che potranno bastare per 4 persone. Infarinatele bene e friggetele nell'olio o nel lardo. Ora fate un battutino con un quarto scarso di cipolla di mediocre grossezza e mettetelo in una teglia proporzionata con grammi 60 di burro e colorito che sia, collocateci le polpette, annaffiatele dopo poco con sugo di pomodoro o conserva sciolta nel brodo, copritele e fatele bollire adagio una decina di minuti, rivoltandole. Quindi mandatele in tavola con un po' dell'oro intinto e spolverizzate di parmigiano. L'autore aggiunge al composto uva passolina e pinoli, ma se ne può fare a meno.